No, Claudio. Ehi, Germio Piorume, buonasera, ben ascoltato. Ascoltato anche a te, hai sentito, eh? Sto controllando un po', e bene, ma io niente, eh? Se no si spende troppo pure. Ehi, ancora vuoi pesi? Lascia Billino, non c'è niente da toccare, no? Allora, io sto provando la camera eco della ZG con il Galaxy Uranus. Gigi ha detto che la vuole subito perché è meglio della 48. Prova, ah? Che stai? Prova. Questa è la camera eco della ZG con l'Uranus, col Galaxy Uranus, e Gigi sul 5 mi ha detto che la vuole subito, immediatamente. Questa era dentro la scatola, l'ho trovata dentro la scatola della roba di Pietro. Io effettivamente pensavo che fossi con la 48, dico la vita. Molto bella, molto bella. Non è risolito il camera eco di quelle. Probabilmente è stata modificata. Qualcosa è stata fatta, c'è l'ho aperta, qualcosa c'è dentro, boh, no, non lo so. No, questo è il Galaxy Uranus col microfono suo originale, la camera eco della ZG. Picchia che misericordia, 30 watt sta dando, 30 watt al picco di modulazione, 30 watt. Appogatto, no, va bene anche, sicuramente era abbinata con quello. Sicuramente sì, dai, sicuramente sì. Chiedo a entrare, buonasera Claudio Spraviero, Gianni Doppio Roma, avanti, cambio. Sembra che è un fischio, senti. Non sarei di me della portante, non c'è un po'. La crepi di brutto qua, dai. Buonasera, ben ascoltato, ho la speranza che tu mi ascolti, cambio. Questo è il Galaxy Uranus, mica. chiama Luca e te lo dice, c'è il rabinato che poi io l'ho provato l'altra volta, però non accendeva perché c'era il fusibile bruciato per l'alimentazione di questo coso. E allora l'ho messo a parte, però ce l'avevo qua davanti, capito? Era qua davanti. Adesso te l'ho attaccato e questo è l'Uranus con questa camera eco della ZG e il microfono è il suo originale Galaxy, capito? Claudio, io camera eco ne ho sentito tante, quelle staccate dall'apparecchio, ma così belle non ne ho mai sentito, dico la verità. Ma c'è che la sparviera al microfono, Gianni, non le buccia di gioco, no? No, ma gira bene anche l'eco, gli altri eco non mi piaceva, anche troppo ripetitivi. Cercavo di regolare, ti faceva l'effetto robot, l'effetto... Non mi piaceva, c'era anche Alice, non mi piace. Non ve lo leccate, attenzione, non c'è niente a leccarvi a Claudio perché è la mia la camera eco. Sì, è la tua, non ti preoccupare, guarda, la sto già staccando e non ci sono problemi, è la tua, è la tua. Io parlo e non ne dico, vai, questo è il Galaxy Uranus con questa, poi mi è venuto Giuseppe da poco e proprio questa camera ecco era sopra l'Uranus, perché l'ho provata, però come l'ho accesa mi è saltato il fusibile, adesso non so con tutti i cambi che ho dietro se ho sbagliato io e quindi l'ho lasciata stare così. Adesso che me l'hai chiesto tu l'ho attaccata e lo sto usando con quello lì. No, ma sicuramente modificata, c'è qualcosa, ho visto che non è applicata, boh, non lo so, mi pare di aver visto delle resistenze, boh, da 1008, da 2002, una cosa del genere, Gigi. C'è qualcosa comunque, dai, c'è qualcosa perché Pietro usciva molto molto bene. Adesso non so se, perché è vecchia, è molto vecchietta questa camera, ecco, però le condizioni già sono buone, dai, non c'è problema. Sì, perché a parola, no, va bene perché io ce l'avevo gemella, e ripeto, Roberto non me l'ha più tornata perché lui ha fatto un lavoro e si era abbinata a casa su un apparato di quelli un po' di picchiadata che aveva il padre. E dice una cosa impressionante, dice come gli ha cambiato le componenti, capito? Ecco perché lui dice buscate un'altra che te la faccio pure a te, dice buscate, a me quella non me l'ha, mi ha fatto altri lavori però non me l'ha tornata, dice no c'è un regalo tuo, e ma io non te l'ho regalata, la voglio indietro, no, non me l'ha tornata Claudio, niente, no, non me l'ha tornata più. Vabbè, la è questa, ti fai modificare questa Gigi. Lo sai che non ho problemi con te, questo regalo che ti faccio alla grande, guarda, con tutto il cuore, perché so che tu sei amante di queste cose, intanto io non la uso, perché il Galaxy Saturn l'ho già messo in vendita, l'ho messo in vendita 3, questo veicolare, l'LMS200 e l'SSB50. Li ho messi già in vendita, adesso vediamo, meglio l'offerente, questa è una bellissima radio, non so se me ne pento Gigi, però è una radio eccezionale, molto molto bella esteticamente e poi funziona bene. Allora il picco massimo con questa camera ecco mi sta dando quasi 30 watt, e invece ne deve dare il massimo 25 watt. Quello cos'è? Le Saturno è quello che te lo prendo adesso? L'Uranus, Galaxy Uranus, mi hai detto che ce l'ha, chi è che ce l'ha? Giovannino? Quello potente, no? E cavolo! Ma quello c'è, aspetta un attimino, no? Quella ce l'ha già la camera, ecco Claudio, Ah, non lo so io qua non ho trovato niente, guarda, ieri non mi appariva neanche display. Me l'ha detto Gianni cosa toccare perché l'ho acceso e non c'era display, praticamente non c'era il frequentimetro, era spento, c'erano un sacco di numeri, un sacco di funzioni, ma il frequentimetro era spento. Allora Gianni mi ha detto mi tocca lì, è apparso il frequentimetro e adesso lo sto facendo funzionare. Questo il Galaxy Uranus, mi ha detto tu ce l'ha qualcuno dei nostri, non so se è Giovannino, boh, chi è che ce l'ha? Cos'è quello della stazione fissa, quello grande è quello lì, non quello come quello di. Che quello è un altro gara. Quello di stazione fissa stai parlando, tu che sembra un tartunneco sembra. Oh, è come il Typhoon, è come il Lincoln, come quello che c'è tu, come l'8001, una cosa così è. Ma quello ce l'ha già lui l'Ecovi, quello è l'eco suo di quello lì che stai adoperando adesso tu. No, ecco, non c'è funzione qua, non la leggo io, ecco, Gigi. No, non ce n'è, no. Io ho attaccato questa camera ecco e sta funzionando così. Se la spengo il baracchino funziona normale col microfono normale. Andiamo a vedere. Guarda, così è spenta senza camera ecco. La modulazione è sempre quella senza l'eco, no, è così. Però quello dovrebbe avere l'eco suo comunque. Non lo so, bisogna. Qua non ce n'è funzione, non me leggo io, ecco, capito Gigi? Non me leggo. E quindi gli ho applicato questa e va bene così. Adesso c'è la camera eco spenta. Il microfono normale sta funzionando con solo il baracchino, va. Bene, mi ascolti, già ne ho più rotte. Sappa che ti ascolto bene, certo. Benissimo, va benissimo. Ma io, guarda, è una coppietta vincente quella. Io darei apparecchio e coppia vincente. E beh, adesso vediamo. Adesso cosa hai detto, Giampa? Questo Galaxy Saturn Echo come frequenza se lo mette in tasca, perché questo non ha bande, capito? Questo bande non ne ha, praticamente c'ha la manopola della sintonia e parte, tu lo accendi e lui parte da 25, poi ci sono le freccette che puoi cambiare, i megahertz, i kilohertz e gli hertz, capito? E qui tutto lo posti come vuoi, parte da 25 MHz sino da 25, allora 25.000 a 32.000, ma di continuo però, senza cambiare banda, capito? E infatti sono 25 MFM e 50 in banda laterale. Preferisci quello perché è base, ma questo veicolare è molto meglio di quello, questo è molto molto meglio, anche come watt, perché il Saturn Echo non ti dà 50 watt in banda laterale, manco se ti ammazzi, questo è proprio regolabile, capito? Questo è proprio regolabile, da 0 a 50 watt, li puoi regolare tu come un HF, non c'è problema. E la sintonia è uguale a quella dell'HF, a frequenzimetro, tutto digitale, con la tastiera tipo quella del 440, proprio una cosa così, è molto molto bello. Avanti B2, buonasera. Buonasera a tutti, E ci siamo anche noi, buonasera anche a te, avanti Gianni. Doppio root. Io intervengo adesso. Avanti Gigino. Gigino si è addormentato, vai. Ah, mi piace più così però, Gigi. Gigi. E tu sei prendendo in giro, chi so è? Lui era 48. Adesso lo stacco, ti faccio sentire l'ora 48, vabbè, se sei così. Se ci vuole questo, mi prendo l'ora 48 e mi tengo quello lì, perché ha più canali, non prende colpi e non me ne fotte nulla. Non è più grande la mettere in macchina, quello. Non mi interessa, no, già ci sta, c'è la staffa sua, c'è tutto, no, non c'è problema. Non c'è problema, già ce lo facciamo stare, K. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti quanti i componenti del canale 10, a te Gianni, Claudio e chi c'è in ruota, buonasera. Ciao Giuseppe Lucido, buonasera. Senti Claudio, per lei così, che sta facendo un'altra accoppiata. Cappa, stavo sentendo, complimenti Claudio, una buona radio, veramente ottima quella radio lì, veramente ottima, cambio. E Giuseppe Leoncino, buonasera, ben ascoltato. Ehi, è copiata vincente, L'operatore ci vuole, l'operatore con le corde vocali, cambio. Ecco. Claudietto, io non ti ho ascoltato tutta la mattina perché ero causa, forza, già mi hai capito, lavoro e dunque ti sto ascoltando adesso, stai uscendo, che è una meraviglia, 9 più 30 qua, cambio. Anche io non lavoro, guarda, no, ci sono problemi, lavoro anche domani. Ciao Marchetto, buonasera, ben ascoltato, avanti, cambio. Cos'è questo vecchio lì? Ciao José, buonasera, ben ascoltato. José, una camera ecco di chi c'era 20 euro, José. Una camera ecco da 20 euro attaccata al Galaxy Uranus, cambio. Va bene, va bene. Una spettina. Buono, buono. Allora se questa è già Gigi, guarda, ha detto che questa è già la sua. Già va bene, già va bene. E tu che sei tutto moscio, cosa vai? Cosa ti hai mosso la iatta, cosa ti hai mosso? O l'uccello ti si è ammasciato? A me. Allora, sei serio, serio? Allora, sto parlando una cosa buona, se c'è gente che dorme. Ah, così è. Allora lo spengo, ecco, vai. Lo spengo, mi. Mo lo spengo, aspettami, guarda. Spento. Bello, bello, bella radio. Lo teniamo spento, Così non facciamo danno. Non svegliamo nessuno che sta dormendo, tutto a posto. Vero, Giuseppe? Cappa, giustamente. È l'ora del riposino, Claudio. Riposino, dillogi che sia riposino. E anche io lo pometrai un pochino, va. E stamattina ho trabacchiato. Gigi Vulcano! A Gigi le piace anche così senza, con la camera eco chiusa, Entusiasmante sto baracchino, veramente. Veramente entusiasmante, peccato che c'è l'attacco a 6, quindi devo sempre usare l'adattatore, 6-4, 4-4, due adattatori c'ho, vabbè. Però se mi gira le palle, te lo togliamo questo, Gigi, te lo togliamo questo adattatore, lo facciamo a 4? Gigi è morto. Gianni, non più rotto, riprendi. Beh, questa era la 40, non la ce la fa sentire. Ehi, aspetta, te l'attacco. Aspetta, intanto devo solo cambiare il capo d'antenna perché non mi bastano più i... Non mi basta più il commutatore. Aspetta un secondo, Ma è impossibile. Già. E allora? Sono in ghiando, sto. Anche io fra un po' mi... chiudo gli occhi almeno un paio di ore, mi riposo e nuovamente alle 7, nuovamente di là. Vabbè, ti dovresti riposare un po' di sé. Vabbè che stamattina alle 10 dovevo essere già lì, alle 10:15 ero già lì sotto nel bar, dunque, ma non c'era un'anima, una paranoia e dunque ero più stressato che altro. Oh Gianni, questo è dalla 48 col microfono normale. Frontolando P1, sta P1, avanti. Adesso le passiamo la calamitas. Allora, questo qua era il 48 con il suo microfono, eh. Allora, cosa c'è da dire? Anche questo è bello, sono in versione, sono tutti due belli. La differenza già c'è, vai. Questo è una emozione inversa, già la sento io. Già la sento, ma la ascolta dell'inversa. Quella là già è buona, però questa non lo so, gli ci bisogna sentire, vai. A vedere cosa dice. Mi piace molto più l'altro, eh. Va bene, io sto usando la camera microfono. No, io sto usando la camera ecco della ZG con microfono su originale della Galaxy. Va bene, va molto bene, ma anche se la spengo c'è una bella modulazione. Guarda, così è spenta, senti che modulazione che c'ha. D'accordo, d'accordo. Giuseppe Leoncino, avanti, riprendita, è da parte mia, io vi saluto e ci sentiamo stasera, eh. Vado a farmi un riposin che stamattina ho lavorato, ho fatto Fabrizio, Gianni, Giuseppe Leoncino, Giampaolo Silvestro, Eugenio, B2 e chiunque fosse in agguato. Ciao a todos. Ciao a tutti, dai. Ok. Ciao. Leoncino. Ciao Fabrizio. No, adesso questa la do a Gigi, dai. Ma l'ha chiesta e non ho problemi con Gigi. Però se la usa lui tanto non me la fotti lontana, ma già ce l'ho la 48, io già va bene lo stesso. Tanto l'ecco lo uso pochissimo. Ciao a tutti, a ci sentire, cambio passo, compro e vendo. Ecco. Anch'io compro e vendo, sto vendendo tutto. Guarda, sto vendendo l'850, se interessa qualcuno, Cagliari e ne vuole 600 euro, quindi mi prendo 9.40 e lo faccio andare come dico io, analogico, molto ma molto meglio dell'8.50. Avanti break. Buonasera, finalmente, buonasera Fabrizio, e buonasera anche a te Claudio. No, ma tu, sei tu, scusa, ma no, non ti avevo sentito, c'avevo lo... E le freghe un pochino chiuse, perché Fabrizio con questo baracchino mi arriva a manetta e quindi devo chiudere appena appena. Ciao, buonasera, ben ascoltato anche a te. C'è Gianni Doppio Room, B2, Giampaolo Silvestro, poi chi c'è? Boh, non me la metto più. Vediamo un po' se Gianni vuole riprendere. Gianni? No, Gianni si è addormentato. Giampaolo, vuoi riprendere? Ciao, addormentato. Sì, riprendi. No, è che stavo parlando con mia moglie e devo andare a portare il bambino al catechismo, fa un po' voglia, non la giugana, e vabbè, andave, c'era anche Gigi, mi pare, vero? Io adesso faccio un altro esperimento, attacco la camera da eco chiusa, alla camera da eco, alla camera eco chiusa le attacco le saletta, vediamo se va bene, senza aprire la camera eco però, perché altrimenti fischia. No, Gigi non ha ripreso, evidentemente, tanto. Oh, avanti Fabri. Fortuna di trovare, però di questi in svolta 500, 600, 650 ne trovi un sacco, tu direi non sei se ne va anche 7,50, se ne vale, ma il problema è che bisogna avere dentro cosa c'è, anche filtri, quello vuol dire, ok, ce va quanto vale, 700 euro, ma dammi 630, se c'è 560, 70 euro, poi lo faccio fuori subito, sono in tasca e faccio quello che voglio fare, tanto con 60, 70 euro vai a mangiarci una pizza lì, dritto. Non so, però, capito, ho regalato anche troppo. Guarda, alle 4.40 io l'ho venduto, l'ho mandato su stamattina, l'ho venduto a 450 euro, ma non ho preso il nuovo perché mi chiamo Claudio, punto, ho già detto tutto. Questo è un carissimo amico e ce l'avevo attaccato già l'anno scorso, è sardo, abita in continente, è un rematore, voleva una radio piccola da poter spostare eccetera, mi ha contattato e appunto me l'ha detto, so che ti duole il cuore, però se me la dai è come che ce l'hai tu. Ho detto guarda, io te la posso anche dare, però non meno di 450 euro, mi ha detto ma no, mandamela immediatamente. E gliel'ho spedita stamattina mi da Buzzi, dalle poste di Buzzi. Capito? Spedita, boh, non devo dimensionare di 4.40, per me ha fatto già la storia, no? Per la 27 c'ho baracchini che non ho problemi, vanno benissimo. Quando devo usare la radio superiore c'ho 140 che non ce n'è per nessuno. E la 50 sono propenso a darlo, trovetto. Lo voglio perché no, non mi interessa, voglio una radio a una luce che non mi piace, non mi trovo, già 950 e l'uso esclusivamente in mano laterale ed è una radio che va bene, non c'è problema, c'è anche il 7 per la M, però la uso pochissimo, qualche passaggio, qualche volta giusto per provarla, è una radio eccezionale per le mani laterali, ma ce li ho doppie, capito? No, tanto nel 950 c'ho 10, 15, 20, 40 metri, faccio cosa meno appunto di stare anche con l'8 50 lì a fare che cosa con M, no, e noi siamo i baracchini, più che sufficiente va, no, non c'è niente da dire, capito? Niente da dire. C'erano l'alba, non fanno il 22, non dovevano fare il 22. Ah, no. E domani allora là, a giocare a Tisci. KK, però è a mezzogiorno mi pare, da mezzogiorno a luna. Papà, lo sapevo dalla volta che sono andato alla Sagra Ossi e ci hanno dato i volantini che c'era questa sala, infatti risultava il 22, non risultava, però risultava all'ora di pranzo. KK, cosa fai? Lo strapitisi ci fa? La cosa del vento. Tanto acqua stasera, vabbè, no, comunque è nel primo pomeriggio già, quindi non so se inizia verso le 4 e 5, non so, c'è una sparagia rosto, un po' di festa, perché mi hanno avvisato anche i miei colleghi, quelli di Ossi, Tisci, Uriucini, ma non ci vado perché c'ho altro a fare stasera, c'ho gente a casa, quindi no, non ci posso andare. Ma buon ragazzi, vi saluto, ciao Fabri, ci sentiamo più tardi, Gianni, Giuseppe, Eugenio, Giampaolo si è ancora ascolto, Antonio Bombo, ti rimetto il microfono, vai tu, ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, qua il tempo per me, vai. Fabrizio, aspetta che mi vado a fare, che c'è il bambino che sta piangendo, scusa. Ah, attenzione, c'è un po' di Porto Torres. Ma c'è un po' di QRM, non riesco a sentirti bene, sa che mala sorte c'è stasera. Ok, già ti sento, già ti sento poco, ma già ti sento, non riesco a capire perché c'ho questo QRM maledetto. Pensavo che, perché sei, tu sei in mezzo al QRM, tu mi sentirai bene lì a Porto Torres. Ok, dai. Chi c'è in questo canale? Fa riprendere tutto, ho già fatto. C'è una figura. Ma c'è... Positivo. Appa. Beh, da un po' di tempo senza sentirti lui. È positivo, dai, positivo. E non entro sempre, dai, non è sempre che entro. Che capo, la 300 un watt. Adesso. Sì, adesso 300 un watt, non c'è supermercato aperto. No, ma 5 watt e va bene. Ah, no, non disturba. Chiuso adesso il supermercato, ma sono più 5 watt. Cappa. Ma va bene però lui. Capparoccia. Cappa. Comunque, ciao tesoro. Sono proprio di quelle barattine di nuovi a vedere. Magari non disturba me. Stavo, no, stavo facendo cosa? Stavo ascoltando e facendo. Perché magari hanno la capsula autonoma, magari no, non disturba. Dovresti provare, uno di quelli nuovi dovresti provare, per vedere com'è. È positivo. Ascolti, provo, tanto che ho, se mi hai due minuti, ti provo un baracchino che l'ho ritirato. Sono andato a mettere a posto per vedere se va bene. E vai. Prova, lo sei modificato? No, sono i canali, c'hai, cioè, basta, sopra e sopra. Ah, vabbè, vabbè. Prova, che il primo passaggio che l'ho fatto sentire ripeteva molte volte, e se secondo gli manca la coda, e non c'è avuto la coda a volo di Conte. È positivo, già. Cambio. Adesso va meglio qui. Sto regolandolo, già. Sto facendo delle prove, dai, lo sto regolando, cambio. C'è qualcosa che gli manca a lui? C'è qualcosa che gli manca? Sì, va per un po', poi fa wow, hai capito? Si blocca. Non c'ha quella progressione che deve avere, non riesce a capire, guarda. E avete parlato in due, ma lo so io cosa gli manca, gli mancano 250 euro sopra. Uscire. Ma ha migliorato qualcosa, cambio. Sì, lui è molto migliore di prima, no? Ma ripeto 4 volte, adesso un po' di coda si sente, ma è, non è continua, non è che fa che si blocca. E vabbè, non tutto si può avere, deve essere che non ha speso molti soldi per farlo, quindi gli hanno tagliato anche la coda. No, sto provando. Guarda, così è. Cambio. Adesso è meglio. Fa un passaggio lungo però. Avanti, chiami doppio ru. Senti un vulcano che fa chiamata. Cambio. Adesso è migliorato, va. Ha migliorato un bel po'. Adesso si sente proprio l'eco che non è ripetitivo tantissimo come poco fa e la cosa sembra che si allunga. Positivo e caparogero, dai. Ma è bello com'è, io non mi sento, cambio. Sentito di migliori, ma non è brutto. Sentito di migliori da te, però questo qui non è brutto, si può, diciamo, adattabile. Positivo e caparogero, dai. Anche questa è una scatoletta, La scatoletta esterna, cambio. Che sporco. Ecco perché. Una vigana di figura. Porco Giulio. Che sporco, Porco Lecco. Sì, è sporco Lecco. A me non mi va con la radio, te lo devo dire lui. Sì, si sente cosa, però non è soddisfacente quella radio. Mi dispiace. Magari l'ha voluta lui così. Ciao a tu, anche tu ci sei. Ma buonasera Giulio. Ciao a tu. Ciao, dovevo dire a Luigi che non è soddisfacente quella radio, a me non piace, le dico la verità, sì si sente, però non ha quella cosa che deve avere. Vabbè, contento il padrone. Ah, il padrone sono io, attenzione, questa è una cosa che mi hanno regalato, capito? Non è una cosa che mi hanno regalato, capito? È una camera, ecco, troppo confusionaria, tutta messa male, non è chiara. È positivo, io stavo cercando di regolarla se ci riuscivo. Allora, parte dall'inizio, man mano che fai le regolazioni ti diciamo come va. Positivo, perché adesso secondo è un po' gracchiante, così è. Sì, è gracchiante, non è pulita la regolazione. Ho capito, dai. Non lo so, c'è qualcosa che non mi piace, non c'è proprio da fare. Però andare va, per carità. Però Bruno, non lo so. Positivo, sempre c'è qualcosa di stupido, allora, dai. Metti un altro microfono, prova a mettere un altro microfono. se stai usando una camera eco non è che puoi usare il microfono amplificato anche, no? Cambia un altro microfono normale. Lei lo cambia. E questa ti piace, Giulio? Sì, la tua è bella, è chiara. Ma questo è l'Intec 550 Power, originale. Sì, è bella, è pulita, bella, chiara e forte anche. Ha un microfono suo, il tutto suo, l'eco suo, il bip suo, non... come l'ho comprato, il microfono è suo, non nessuna applicazione. Sì, è bella, è buona, è buona, è buona, no, no, non ci sono dubbi, va benissimo, è anche abbastanza forte. Guarda, ora io di questa radio sono veramente soddisfatto, guarda, no, da quando l'ho comprata sono troppo contento, guarda. Sì, sì, va bene, va bene. Poi considerando che è una radio che costa anche poco, dunque tra qualità, prezzo e diciamo che è soddisfacente. Ma, e questo qua l'ho preso in continenza, l'ho presa. L'ho presa la tecnocomunicazione. Io la conosco, quella vita la conosco. Ho comprato un sacco di cose, ho fatto arrivare un sacco di cose anche per altre persone. E un sacco di apparecchiature avevo fatto arrivare io da quella ditta. No, una ditta sì, è una ditta, è molto in gamba, non ci sono dubbi. Vediamo, già mi ha addormentato? No, sono sveglissimo, non sono addormentato. Sono sveglio, ciao Giulio, ho sentito, va. Diciamo che l'eco non può essere quello che si mette nella radio per intenderci all'interno. Questo qui è un eco esterno e lo sta adattando, ma... Sì, infatti ha molte vibrazioni che poi sono vibrazioni che probabilmente riguarda solo e esclusivamente la regolazione. Infatti è per quello che gli ho detto io, se lui parte dall'inizio, proprio dall'inizio di quando comincia a fare eco, man mano che fa i passaggi gli possiamo dare un ragguaglio più preciso, qual è la posizione migliore, almeno usando la nostra ricezione. Poi naturalmente ognuno di noi può avere una ricezione differente, questo è anche comprensibile. Avanti Gigino, cosa stai combinando? Gigi sta scacciavitando, deve essere. Allora giù, te l'ho più sentito. Come stai? Io sto bene, e tu? Bene, bene giù, non c'è problema. Bene anche io, è meglio così, là. Lavorando? Sì, sempre lavorando. Ho tirato fuori il 789 della Sommerkamp, sto usando quello adesso, così ce l'avevo su in massata dentro uno scatolone dove ho tutte le altre apparecchiature. Non mi hai detto niente, vuol dire che sto uscendo bene, che pure in realtà non è altro che un brutto, un Garas, o come lo vuoi chiamare, praticamente il doppione di quello che ho. Solo che questo ha la tastiera, ha tante cose, va avanti a un hertz per volta, eccetera, eccetera. Vedo che già funziona ancora. Beh, funziona come, no? Non ti avrei detto che ci rimane se fossi uscito male. Sto facendo bene, non ti posso dire nulla, va bene. Ma è valvolare, è vero? No, assolutamente, è come un prodotto, capito? Però è della Sommerkamp, è un gara, sì, praticamente, però questo è, diciamo che l'originale, il 789 si chiama della Sommerkamp, capito? È alla tastiera, ha lo split, tante cose, insomma, va avanti così, ha il bip, ha i canali dal microfono, adesso vabbè io sto usando il microfono amplificato, però ha anche i canali dal microfono, tante cose così. È uno, praticamente, lo stesso apparecchio per Galaxy Uranus, capito? Ah, ecco quello che c'è Claudio, vai. Ho capito. Quelli lì vanno bene qua, sono con un derivato e vanno molto bene. Diciamo che va bene, sì, va bene veramente. No, ma hai anche la possibilità, intanto ha tantissimi canali, perché parte la banda bassa e arriva oltre i 30 praticamente. sì, che ti puoi immaginare. E poi vai avanti a un'erta alla volta, mi spiego bene. Ad esempio, non so, 27.075.1.2.3 e così via, capito già? Sì, sì, te l'ho capito. Ed era messo dimenticato io quello lì. Ne ho tanti, li avevo messi su, adesso l'ho tratto fuori, quando li metto su non mi interessa più tanto, tanto non è questo problema, tanto il canale si usa, lo sappiamo, sono 10 e il 5 alle volte, qualche volta il 12, dunque praticamente è un doppione, se vogliamo, del Galaxy 2 che ho usato sino a ieri, hai capito? Dico ieri per dire 15 giorni fa, no? Capito? Niente di più. Ma te l'ho arrivata a tirare? No, perché poi non avevo più chiamato, avevo chiamato due volte, ma per la seconda volta mi aveva detto che ancora non gli era arrivata, allora non ho più insistito, vado avanti così e fin quando non mi viene di nuovo in mente di ritelefonare, non ho più chiamato, capito? È solo questo qua che ce l'ha, non è provato da altri punti. Per altri posti non avevo chiesto, io se l'ho fatto quello, perché quando io do una parola voglio che quella parola rimanga fedele a quello che dico, capito? Non faccio il salto in banco da un posto all'altro, ma evidentemente loro non erano in possibilità di mandarmela dal momento che non ce l'avevano, capito? Allora io richiamerò ancora. Ad ogni modo io gli avevo lasciato anche il mio numero, gli avevo lasciato, ma se non mi hanno chiamato evidentemente è perché ancora non ce l'hanno, che ne so, boh. Sì, non ne stavo più facendo, non lo ricordo. Stavo facendo solo la turbo, boh. E tu eri la turbo, beh. La turbo infatti io avevo chiesto, e allora? Non mi ricordavo la 1 io. Perché la 1 e la 5 non stavo più facendo, stavo facendo la turbo. Ma la turbo forse ce l'ha anche Grassi. Non lo posso dire, questo non lo so perché non ci sono andato. Anche della verità, una volta sono andato, io mi avevo detto che aveva la 5 e costava addirittura molto di più anche della tubo. Pensa che mi aveva sparato 135 euro, l'aveva sparato, ed era la 5, non aveva la tubo, mi aveva detto. E la 5 l'ho pagata anche io così, 9 anni fa. L'ho pagata anche io così. Quando io l'ho comprata, quando lui aveva il negozietto alle Conci. Sono andato dove adesso, là, dove ha fatto il trasferimento, capito? E dunque no, ma comunque è diventato abbastanza, e poi non ha più niente quello, no? Un'altra volta sono andato a chiedere due transistor, sono andato, no, dice non ne stiamo più trattando, non ne sto facendo arrivare più, un sacco di storie, vabbè ho capito, arrivederci, me ne sono andato a Fusano, l'ho comprato lì. Diceva bel chiuso, andato, però la facciamo girare, avanti Gigi gira. Glielo riprende anche tu. Che scappa, purtroppo non ne stanno facendo più, Giulio, ma almeno la 1 la potevamo lasciare, fare la turbo e la 1. Che poi non ha nessun senso fare due antenne uguali, almeno una la potevano fare diversamente, potevano lasciare la Mantova 1 e la Mantova turbo, perché tra la Mantova 5 e la Mantova 1 sono completamente uguali, non cambia nulla, c'è un radiale in più, cioè, perché io ho visto le caratteristiche e non cambia assolutamente niente. Se te lo può dire anche chi vuole, però almeno la 1 l'avrebbero dovuta ancora produrre. Solamente sì, in effetti come antenna ha lo stesso guadagno e tutto, solo che la 1 ha una banda più ristretta, la 5 ha una banda più larga, capito? Cioè abbraccia più canali praticamente, ma non è così importante, non è importante anche perché intanto i canali che poi vanno oltre incominciano ad essere sui 10 metri, cioè 28 eccetera, Allora non è che non è così importante, ecco, solo per, magari per ascoltare, ma ascoltare si può ascoltare anche con la 1, no? quello sì, no? Infatti non cambia proprio niente. No, ma io volevo la turbo perché ha più guadagno, perlomeno stando alle caratteristiche che loro scrivono, che loro elencano, io volevo solo quella, capito? Per quel motivo lì, ma niente di particolare. Poi il fatto che arrivasse magari, che so io, sino alla decima banda non mi frega più di tanto, tanto lì non ci puoi andare, perché quando vai lì sei in 10 metri, allora no, non è possibile, capito? Tanto... No, guarda Giulio che ti sbagli, non fa nessuna banda in più, perché io ho visto le caratteristiche, le ho lette io, e sono completamente uguali, non hanno nulla di più, non hanno. No, non è vero, l'unica che cambia è la turbo, che c'ha 8 dB e poi c'è la frequenza più alta. Io dirò completamente uguale, non cambia nulla, c'è solo un radiale in più e basta. Guarda, lo so perché non, se trovo il catalogo te lo faccio vedere, perché ne sono sicuro, perché io li ho viste tutte e due e cambia solo quello, cambia, guarda, te lo posso garantire. Ma io l'avevo visto anche al computer e poi avevo anche parlato col forum dei radioamatori e appunto anche loro avevano detto, infatti avevo chiesto qual è la differenza tra la 1 e la 5, tra la 1 e la 5 non c'è differenza di guadagno, non ce n'è, però ha più larghezza di banda, tutto lì, niente di più, capito? Come ti ho detto io. Comunque non è un problema, poi tanto a me non mi interessano quelle, al limite per prendere da 1 o da 5 tanto male butto giù quella che ho, me la ristrutturo come si deve, me la ripristino in una maniera perfetta e va bene per altri 10 anni, capito? Perché beh, tutto sommato l'antenna che io va ancora, sempre quello. Tu pensa che anche ieri, quando è ieri, no, a volte ieri notte, ho parlato anche con Budusron, ti puoi immaginare, in banda laterale, ma ci ho parlato, per dire, no? Sì che vedi che già funziona, solo che mi manca l'autoradiale, ma sono autoradiali che si possono attaccare e rimettere con un tubo di alluminio da 8 mm, mi sembra che era, tanto l'avevo già fatto un'altra volta, qualche anno fa, e adesso vuole rimessa a posto, ma era più che altro un capriccio, che la voglio cambiare per capriccio, non è niente di più, capito? Vedi, se la trovi, metteci. Guarda, se io l'avrei trovato avrei messo la mano da uno, ci avrei messo. La verità, guarda. Se l'avrei trovata. Lo so. Io mi sono fissato con la turbo, vabbè, non fa niente. Avanti Gianni. La più o meno sono tutte uguali, quelli di turbo, un altro da 5. Sono solo i radiali e basta, sono quasi tutti uguali. 5 va benissimo, perché mi ha dato vedere tutte le soddisfazioni, va molto bene. Poi le altre io non le conosco, però Mario Massi, vi ricordo che aveva la mantella 1, mi pare, e poi ha cambiato con la turbo e ha detto che quelli che sentiva più non li sentiva più, o li sentiva più bassi. E arrivava più basso di posti, non era soddisfatto di quello. No, ma sai cos'è, si dice, perlomeno così si dice, che la turbo serve per fare DX, è quello che a me interessava, perché tanto a breve distanza ti sentono anche con un pezzo di fil di ferro, non con un'antenna come si deve, però lo volevo migliorare a lunga distanza, io capito, è tutto lì già. E veniva il processo di gusti, è una questione di rispetto di pari delle persone, di gusti. Veniva sui gusti, la verità l'avevo presa perché ho preso un po' quella, e ho deciso sulla 1 e sulla 5, ho trovato la 5 e ho preso quella lì, non me ne frega più nulla. Ma 135 euro me l'aveva fatta pagare, chissà. Sono costoso, sì, in effetti. Cioè, poi fondamentalmente a me non è tanto di andare molto lontano, ma di sentire da lontano che mi importa di più, capito già? Perciò che alle volte qua tu lo sai, io non sono a Sassari, sono in basso qui alle punti, sono a 95 metri sotto Sassari praticamente, dove abito io, sicché a questo punto qua avrei bisogno di più sensibilità, di un'antenna più efficiente, capito? E mi interessava soprattutto per l'ascolto, ma comunque va bene lo stesso, anche perché ormai lì è che se ne fanno pochi, anzi poche niente, non c'è più quell'entusiasmo, e forse la voglia ci manca, non lo so, e diciamo anche che mancano i corrispondenti dall'altra parte, perché anche dalla Furia vedo e mi sono reso conto che non è che hanno poi tanta voglia di fare di X nemmeno loro, non è più come gli anni passati, capito già? E perciò va bene così. Vediamo se Luigi ha ripreso. Luigi sì. Oh Giulio, tu a chi la fa? La Sirio la fa? No, io avevo telefonato alla CRT di Catania e l'assegno ce l'hanno altre antenne, quelle altre antenne, aspetta, ce n'è una, mi sembra che mi ha detto cosa, 170, 175, 178, mi ricordo bene, una cosa del genere, dice guarda che è efficientissima, è buona, dice ha una costruzione molto solida, ha fatto sì, va bene, tutto quello che vuoi, però io voglio quello e basta, ah va bene, allora dice, mi ritroviamo fuori perché non ce l'abbiamo, mi aveva proposto un'antenna, aspetta come si chiamava, la 827, boh, una cosa del genere, non mi ricordo, una cosa del genere, e l'ho vista, l'ho vista, ma una bellissima antenna, esteticamente è molto bella, però ha 3 decibel di guadagno, 3 e mezzo, per quello che non l'ho voluta, capito? Sai cos'è l'esilio come trasmissione, non va forte, insomma. Ce l'ha Fabrizio, ce l'ha, gli dice un bel posto, perlomeno qua arriva fortissimo, arriva. A me come antenne piacciono molto, mi fidano molto fiducia, perché tutti quelli che hanno avuto la Sirio escono un bel forte, escono. Ma già c'è anche una versione che è più potente. Atto, ma sono ultime antenne, io non sto usando un Sirio. Te dico che questa qui mi ha dato un bel soddisfazione nel mio piccolo, sto usando una Turbo 2000 che è anche vecchia, ci avrà 20 anni, ci avrà questa antenna, perché l'ho recuperata, me l'hanno data, era prima la nostra e poi me l'ho ripresa io, è un carneggiato. Ma ti dico, da quando l'ho montata a casa qua è veramente buona come antenna. Ok, sì, chi è che mi stava chiamando? Luigi, tu sì? Positivo Giulio, lo vedo un po' se te l'ho abbassato, se riuscito a abbassarlo un po', le grazie adesso. Adesso è grazie di Dio la radio. Sai cos'è che... Non impariamo mai in Giulio, è passato prendere il bicchiere della radio, era tutto al massimo e ci danno un finito, solo così ho fatto, mi sono reso conto dopo, più tardi. Ho capito, dunque c'era una doppia amplificazione, qual era? La corsia che si sentiva era quella allora, c'era un accavallamento di amplificazione in pratica. È positivo, ma me ne sono accorto dopo, capito, detto, ma quando mai non arriva, e invece poi mi sono accorto, vedi, guardami, vedi come si sporca la cosa. Sì, no, così, diventa più forte, però è più sporca la radio. Sì, ma è meglio così, più chiara, no? Così è già migliorato, giusto? Sì, è bella, così la parola della radio è bellissima così. Confermi Gianni. K, confermo e mi saluto tutti che devono accompagnare Marco al catechismo. Ci sentiamo le prossimine, Giulio, Luigi, eccetera. Allora, vi saluto tutti cordialmente, buon proseguimento di serata, poi magari più tardi ci sentiamo. E poi Giulio puoi facciamo. Mi guardi, non passa a canale 12. Scusate. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo. Va bene così. Sì, sì, no, ma confermo, la radio è buona in quel modo che me l'hai fatta sentire, o lui. Avanti a tu, no. Accidenti, la da uccidere. Avanti a tu, tu cosa dici per quella radio? KK. Aspetta un attimo Giulio, che facciamo una prova a vedere quanto arrivo agli punti. Se mi lasci il tempo l'attacco, Va bene, d'accordo Antu, attacca pure, vediamo un po'. Intanto nel frattempo mi prendo gli occhiali, mi alzo, ecco, perché ero sdraiato con il microfono sul petto. Va bene, avanti lui. Allora, Cristo Maria, che di 5 watt. Ma dalla cerale pompa, te lo so. Io con lo smitter dove ti arriva quando fai così, quando parlo io, voglio dire, dove ti arriva lo smitter? Sì, oltre 50 fondo scala, sì. Non so io quanto arriva a casa tua. Lo sai che ti faccio arrivare il picco massimo. Non sento niente, la modulazione è proprio bella, comunque non si sono abituati così. Allora uno passa per tempo dei problemi, ma facendo in questa maniera si possono risolvere. Eh beh, sì, noi abbiamo l'abitudine di usare sempre la M, però io secondo me sarebbe meglio usare la banda laterale, perché ritengo che sia più pulita come frequenza, meno QRM, che alle volte ci fa sordo un QRM, soprattutto in quelle giornate che piove, in quelle giornate brutte, così per carità, ti fate venire un dolore nel capo, ti fate venire invece in banda laterale, è tutto altro discorso. Vigilanza con un di casino fare, perché logicamente il water sono 4 volte di più, cazzo spacchi di brutto, Sì, infatti, quindi vabbè, ti vedo subito, appena mi stanno chiamando, mi sono appena sentito perché la porta è chiusa, mi stanno chiamando da piano di sotto, scusami che scendo un attimo, vediamo un po' cosa vuoi, no? Forse vuoi uscire, mia moglie vuole farsi una passeggiata, io non lo so. Ma se stai in gara, comunque, adesso vediamo che cosa vuole. In ogni caso, non so se per caso non lo prendo subito, perché ci sta lottando, perché probabilmente è mia moglie che vuole uscire. E magari non ho il tempo di risalire per salutarti, capito? D'accordo, tu, non so, se tu stai 2 minuti solamente, se per caso non lo vuole prendere, gli assalgo subito, non è tanto. Non prendo a meno per il momento, quanto vuol dire che qualcosa vuole mia moglie, ok? Gappa, dai, vado con te a Can Piccolo, Giulio. Ok, d'accordo, se tra 2 minuti, 2 o 3 minuti non sono di nuovo su, vuol dire che non lo prendo, a meno per il momento, forse più tardi magari, perché non so, sinceramente non so nemmeno cosa vuole, vabbè, a dopo, eventualmente, ciao. La pazzia. Ma non c'è un bell'aria. Oh, mascherato. Ho detto la pazzia. Ma a me? Eia. E poi con la zona di un fa? È stato un attratto. Non attratto. Allora non ammara. Che sono un attratto. Che tu non lo sai, ma lo sai che mi fate il posto, Giulia? Sì, con la fantasia. Ma tu ti dici tu? Giulia. Ascolta una cosa, come mi ascolti tu di modo... come mi ascolti, mi capisci? Certo che ti capisco. Guarda, disagocialmente ti capisco. Vabbè, perché siete fuori frequenza tutti e due. Gabba, guarda vedere, va meglio adesso. Io vi ascolto bene a 27.073.80. Se vado a 75 vi sento fuori frequenza, boh? Oh, Andrea, vabbè, con un baracchino, Se come mi ascolti a me, fortissimo sta arrivando. Oh, yes. Guarini, Santiago 2. Ma che te ne varia? Devo uscire, dai, Anto, ci sentiamo veramente fra un'oretta, se ci sei ancora. Ma ce l'hai, lo so che siamo fuori, ma perché ci siamo sintonizzati fuori, ma non perché siamo fuori, capito? Ci siamo trovati su questa frequenza e ho detto, sintonizzati su di me, basta, tutto lì. Non è che è fuori frequenza l'apparato, ma che là. Ma poi ci sentiamo, dai, salutoni alle prossime, devo uscire per un'oretta almeno. Ok, riprendi pure a tu. Ciao Giulio, dai, ce la sentiamo. Dico, ma come segnale va bene o Fabri, arrivo a forte, qua stai arrivando fortissimo tu, Hola! Ok, ciao Giulio, buona serata, buona passeggiata. Ma qua arrivi benissimo, non c'è problema, arrivi forte. Ascolta una cosa, Angelo, passa in AM un attimino. Buono. Ma mi intende? Tu? Ti avanti? Adesso tu dove sei? Sì, trascinami la frequenza. Aspetta, che abbasso qua. Trascinami la frequenza. frequenza lì? No, non c'è un baracchino che segnale frequenza. Quindi in teoria aspetta, adesso sono qua, ecco. Adesso il segnale dovresti essere sul 10. Caffa, 27.075. Adesso se tu vai, allora, adesso tu mi ascolti bene, se tu adesso vai in USB, io ti sento fuori, ma come mai? Prova ad andare in USB. Centrami con quell'apparato che c'hai, 1, 2, 3. Eccoli qua, sono arrivato. Vedi, adesso sono 27.075, tu quindi mi ascolti bene? Benissimo, ma sono un po' particolari questi apparecchi. Ok, dai, passa un attimino in AM, dai. Eccoli qua, maschera. Ma perché mi stava ascoltando fuori? Infatti ti buscato, si sono messi loro più spostati. Capito? Vado, comunque devi forte, fortissimo, radio perfetta, bella potente. Ragazza, anche in AM va bene, sì. Non c'è problema, arrivi forte, poi arrivi 9.20, radio 5 perfetta, senza problemi. Poco fa andando a laterale arrivano ancora più forte. Sicuramente sì, perché da più basso arrivavi 9.30 più eri bene, anche la modulazione è buona. Chiaro, ragazzi, ma tu sono un Airtex usando l'M95, ma quella non è che l'avevi poco fa col BT, questa è un'altra. L'ho visto, è vero. Ah sì, se no è buona, la modulazione è ottima, perfetta, nessun problema. Vabbè, a due là, che ti lascio che devo uscire a fare una commissione. Ci sentiamo là, casomai stanotte se vi sento già dentro. Da tanto vi sto sempre ascoltando, vi sto controllando se vi comportate bene, anzi se vi comporti bene. Ah, guarda, sarà bravo, va. Vabbè, là tu, ci sentiamo alle prossime, là. Uscendo fai, a prendere le sigarette. Ma se tutti i tabacchini vendessero le sigarette che fumo io avrebbero già fallito. Sì, e sono quelle che fumo io. Oh, nega, io mi piaccio, io l'unica cosa che posso fumare è cannoni. Caffa. No, pure io ho messo 2 anni e mezzo fa, già via in culo. Ma il bello io non ho neanche iniziato. Ma non è piaciuto il fumo, roba così, non mi piace, capito? Così, vabbè, oltre che fa male, e poi non mi piace, ma non mi ha mai attirato la sigaretta. L'unica cosa che mi piace a me è la patatina. Pure a me, aspetta, ambrosia, pure a me, cazzo, mamma mia. Vabbè, là, ci sentiamo. Ascolta, ti ho messo il segnale, prova a darmi il segnale com'è. Ah, qua sei 9.20 a radio 5, Beh, sai, anche tu che non sei così. Vabbè, Natura, ci sentiamo, stammi bene, alle tue. Ehi, a capo, se faccio così aumenta pure. Hola. No, va bene quel baracchino, va molto bene, anche la modulazione è ultima, è perfetta, è proprio chiarissima. Ma hai il microfono normale? No, è il microfono L95 questo. Questo è il microfono adattato, ZG. Adesso l'amplificazione com'è? Al massimo o non ne hai? Guarda, adesso è al minimo. Però metto al massimo, com'è? Troppo potente. Esatto, no, diciamo che è un po' più spinta con la modulazione al massimo, però è buona. Gaffa, se spinge. Sai che non ti voglio trattenere, vai, se no no. Ti trattengo, cazzo, dici, mamma mia, è un bombolo. No, non ho capito ancora questa là. Ci sentiamo tu, alle prossime, va. Ciao, ci sentiamo. Un po' di giorni voglio conoscere, grazie. Sì, a voi se mi conosci. Ma vero? Io non ti ammetto, non ti devo andare a fare ridere a culo, ti ammetto. A me? Tu a me? Ma non è lui che ti ha giunto a casa in giosso. Tu a me? Allora, lei non te ne ricordi. Ormai, se vedo a me, con alcun ritmo. Seychelles, vai, vai da su, vai a Curri. No, magari ci conosciamo di qui, no? Sono un, non ho presente chi si, a meno così. Se magari ti vedo che ti conosco, eh. Magari dico, ma tu vedi, ma cazzo, tu vedi quella testa di cazzo, tu vedi. Ma per un giorno ci prendiamo una cosa, dai. Intanto già lo so dove è trovate. Adesso vediamo se ci scende in quella zona. Sì, magari ci conosciamo di vista, sicuramente, tu. Capito? Vabbè, tu ci sentiamo, là, stammi bene, e al limite ci sentiamo una volta. Ma fa attenzione che c'ho un buon udito, eh. Io ho scoperto una persona che, lo, come sta invece buono, ha detto, tu sei, ecco, e io, come hai fatto?